Piero prende un pugno di terra dalle cassette di gerani che la mamma coltiva sul terrazzo e un, due, tre, via! La terra sale verso il cielo perché Piero, tutti a parte, è un ragazzo robusto e ha molta forza nelle braccia. Però... Ehi tu! Lassù! Ma perché ti sa per me se ti tirare giù con la terra? Ma guarda che mi hai portato tutto il cappello! Ma signore, che ce l'ha con me? Guardi che lei si sbaglia! Io la terra non mi sono lanciata più, l'ho lanciata su! Ma non lo vedo su, io a farti passare la voglia di fare il giro al bersaglio, ti passassi! E poi mi prendi anche in giro! Ma cos'è? Che cos'è? Ma è quel signore in lapide! Ah, è tuo figlio quel del topo! Scusi, scusi, perché del topo? Che cosa ne prendi? Non ti sento più! Ma non fate il figlio d'accordo! Ma anche lei a fare il giro al segno con i capelli dei passanti! Per l'esempio che dà con figlio! Ma come ti permette? Ma come si permette lei, dico io? No, sono io che domando come si permette! Ma io glielo farò domandare da una guardia! Sì, e si risponderà in un altro modo! No, sì, parliamo un po' di castelli in aria. Voi di fate castelli in aria? Io ho in aria con delle belle cose che sono le castelli. Io non lo so nemmeno cosa vuol dire. Te lo stai spiegando tu? Castello lo fa, castello rappresenta una bellissima cosa. Però poi siccome è in aria casca giù e quindi non so più. Massimo, cosa ne dici? Questa cosa non è più Michele. E tu Michela? Allora per dire castelli in aria non ci sarebbe un'altra parola? Dei sogni a occhi aperti, delle fantasticherie, Allora quando uno si sta fa delle fantasticherie, dice dopo io farò questo, dopo farò quello, dopo guadagno un milione, dopo un miliardo, dopo un fantastiglione e dopo uno strabilione, quelli sono castelli in aria, sono fantasticherie, Allora, dai, poi perde tutto. E poi magari perde tutto, la siete venuto subito in mente la favola di quello là che aveva un formaggio, dice vendo questo formaggio compro due pecore, poi vendo due pecore compro quattro maiali, poi vendo quattro maiali compro mille vacche mi fanno vedere loro tanto formaggio e poi ho perso tutto, ma forse è venuto in mente quella cosa. Tu Luca fai dei castelli in aria ogni tanto, per esempio? Ma non so, penso che il mio cane possa parlare e ricciarsi sulle zampe davanti mentre si ingrandisce e fare le castelle di tanto. Ti viene in mente questo? Magari mentre stai facendo il compito hai in mente di essere uno che guida un'automobile da corsa che arriva primo, non fai mai un castello in aria così? O casomai se il mio cane arriva lì, si mette un grembiulino e mi fai compiti di quando io faccio uno dei comelli, quando mi fa, se penso a qualcosa ma non faccio i compiti, scrivo la cosa. Massimo tu non fai castelli in aria? Insomma, poche volte. Cosa sono? Di essere il direttore d'orchestra? No. Un grande violinista? No. Più grande calzolaio del mondo? No. Pianista? Pianista. Però vorrei essere una ballerina. Vorresti essere una ballerina. Allora stai seduta lì così e guardi per aria e ti sembra di essere una grande ballerina. Tanto scrive così come un pezzato tra le nuvole. Stai vestito pronto la ballerina per loro, la ballerina. Questo vuol dire castellinarie, fantasticherie. Però bisogna sempre distinguere. Ci sono desideri che si possono realizzare col lavoro, con la buona volontà. E ci sono fantasticherie che invece sono soltanto tempo perso. Sentiamo un po' che cosa ne dice Genes nella canzone di Pierpont. Tanto so per tanto che ti ho sempre tanto, ma prima ti ho di dire non portate i capelli, non ci penso nemmeno un pelo, e tanto un pelo. Sono Giuseppe Palumbo, sono un autore di fumetti. Se hai più di 60 anni ti ricorderai di me su Frigidaire, se ce n'è qualcuno di meno probabilmente ti ricorderai dei miei fumetti su Diabolic o altre testate. Quello che voglio ricordarti è di sostenere abbonandoti a Radio Città Fujiko. Mi raccomando, io di Fujiko non ne tolgo. Da 47 anni ti offriamo un'alternativa. Abbonati a Radio Città Fujiko. www.radiocittafujiko.it/abbonamenti. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà.